Wish24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera incontriamo un ragazzo americano simpaticissimo, molto carino, tanto educato. Io ho avuto il piacere di conoscerlo qualche giorno fa perché è venuto a Milano a presentare un progetto discografico e sono impazzita per lui, anche perché è newyorkese e quindi insomma i newyorkesi hanno un posto particolare nel mio cuore. Lui si chiama Peter Sincotti, classe 1983, quindi giovanissimo. È venuto in Italia perché è protagonista nel disco di una jazzista italiana, anche lei molto giovane ma che si sta affermando, e si chiama Simona Molinari. Molti l'avranno sentita anche al Festival di Sanremo. Insomma, Simona Molinari ha duettato in 3 brani del suo disco Tua con Peter Sincotti, e noi, approfittando del fatto che abbiamo intervistato lei, abbiamo intervistato lui in inglese, ci siamo fatti raccontare come mai ha aderito a questo progetto di Simona. I like the songs, you know, and I think we had been trying to do something with them for a while, and I'd heard them, and I heard Lettera, and the schedules lined up, and I think I had a small tour in Italy at the time, but I really wanted to make this work with Simona too, so that's why we recorded, you know. And I like the idea that she's trying to do something unique, that it's a record with themes, that there's a specific point. I like that there's a topical, somewhat of a topical strain underneath as well. So many people today just don't think, you know. So I really like that she was making a record with a concept, you know. Beh, a quella maturità così accentuata, nonostante la giovane età di molti artisti americani che sono spesso già allenati a pensare così da grandi, fin da piccoli, soprattutto quando sono degli artisti ad alto livello, come mai insomma si è trovato a fare queste canzoni nel disco di Simona Molinari? Che poi la cosa divertente è che giustamente tu l'hai pronunciato all'americana, perché lui è a tutti gli effetti un americano, ma il suo nome è Cincotti, quindi è di chiara origine italiana. Forse anche da questo dipende il suo feeling con Simona, tant'è che dice, beh, sentite, infarcisce molto il suo discorso con questi you know, ma sappiamo che non c'è nulla di male, anzi appunto è un intercalare anche simpatico. E poi ci spiega: we had been trying to do something with them for a while, questa forma apparentemente verbale, apparentemente complicata, che ci dà l'idea che era tanto tempo, for a while, cioè da un po', che cercavano di fare qualche cosa insieme. To have been trying to do something, quindi proprio l'uso del gerundio per dirci non è una cosa, non è un progetto così di cui abbiamo parlato in un attimo, ci stavamo pensando da tanto, ci stavamo provando da tanto e finalmente ci siamo riusciti. Poi lui ha sentito questa canzone di Simone Molinari che si chiama Lettera, cioè lettera, però lui l'ha confessato, poi l'italiano non lo mastica tanto bene, ed è successa quella cosa di cui spesso sentiamo parlare gli artisti americani o anglosassoni in generale: quando vengono in Italia bisogna sempre riuscire a sincronizzare i calendari, è una cosa un po' difficile. Sì, questa espressione the schedules lined up. To line up è un phrasal verb, se volete, anche se di intuitivamente possiamo capire che appunto to line up come due linee parallele che convergono. Quindi i nostri schedules, quindi i nostri programmi, che poi schedule è usato una di quelle parole super versatili, cioè l'orario di scuola, cioè l'orario di lavoro, però c'è anche appunto il programma di tour e di entrata e uscita dagli studi di registrazione. Beh, se queste linee parallele convergono, they lined up, e quindi si sono incontrati, hanno trovato il tempo per that's why we recorded, abbiamo trovato il tempo di registrare. Lui ci teneva perché Simona, secondo lui, ha una particolarità. Sì, qui è interessante perché appunto giovane, però sembra avere le idee molto chiare. Lui dice so many people today don't think. People, e probabilmente pensa a suoi colleghi, quindi suoi colleghi musicisti, e invece lei aveva somewhat of a topical strain underneath, che insomma è un concetto abbastanza complesso. Dice quindi qualche cosa di simile a un strain, quindi un'idea, una marea addirittura, potremmo dire. Topical, che non vuol dire topico, o meglio, che non vuol dire topico nel senso che poi noi abbiamo mutuato di importante, quindi qualche cosa di importante underneath, sotto questo lavoro, da cui quindi questo lavoro poi in realtà è sbocciato. È sbocciato anche perché, lo dicevamo, lui è arrivato in Italia, però non è la prima volta che viene in Italia, anche perché appunto lui ha questo cognome che suona così italiano, l'ha confessato, lui ha molto a che fare con l'Italia. Ma cosa pensa dell'Italia? Gliel'abbiamo chiesto ancora Peter Sincotti.

of all original stuff. Stuff è un'altra parola di cui abbiamo parlato in lungo e in largo perché si usa tantissimo. È molto carina, naturalmente è scritta non stuff nel senso di stuff come lo usiamo anche in italiano, quindi S-T-A-F-F, qui in questo caso è S-T-U-F-F, la pronuncia è molto simile, e vuol dire, diciamo, roba. Però roba in un modo un po' più carino e dolce, se di come lo usiamo noi, che magari diciamo che roba è. Ecco, invece stuff è appunto una cosa a cui uno è anche affezionato, in questo caso è all original stuff, quindi tutto materiale originale, quello che c'è nel CD, ed è una cosa di cui lui è orgoglioso. È orgoglioso perché è my own writing, cioè cosa che sono scritto proprio io, scritture mie proprie di Peter Sincotti medesimo. Tant'è che lo chiama appunto il step two of the first record, quindi un percorso, lo step two, il passo numero due di un percorso che è iniziato con il CD precedente, che anche in quel caso conteneva molte canzoni own writing scritte da lui. E poi tenerissimo, l'impressione è quella che lui voglia spiegare qualcosa di più del CD, poi dice no, facciamo una cosa, quando lo ascoltate, poi mi direte voi come, insomma, più o meno scherza così alla fine della risposta. Sì, come se non volesse appunto essere lui stesso a dire che disco importante è, che temi importanti contiene, dice you have to hear it, lo devi ascoltare, I guess, mi sa, no, potremmo dire così, and then you'll tell me, e poi mi dirai. Carino, carino questo Peter Sincotti che abbiamo incontrato a Milano perché ha accompagnato Simona Molinari, con la quale ha duettato nel nuovo album appunto di Simona che si intitola Tua. È finito però il tempo per il nostro English 24. Io devo ringraziare Valeria Bernardi in regia, ricordarvi l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.